Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mappatura e bonifica dell'amianto, finora grazie ai droni individuate le coperture in 30 comuni della regione. L'evidenza totale sarà completata in 2 anni. Dalla prima ricognizione risulta che il 10% delle opere in asbesto vanno rimosse subito perché danneggiate e quindi pericolose. I medici che praticano l'aborto sono sicari, l'ha detto Papa Francesco. Al Burlo di Trieste il numero di interruzioni volontarie della gravidanza sono in costante calo. Allarme immigrati alla Diaccio a Trieste. Il Consorzio Italiano di Solidarietà afferma che ci sono almeno 180 richiedenti asilo, tra cui donne e anche 6 bambini, che vivono in strada senza assistenza. Austria, l'estrema destra vince le elezioni, è la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. FPÖ primo con il 28,8% dei voti davanti ai popolari del cancelliere Nehammer al 26,3%. I socialdemocratici della SPÖ al 21% e i liberali al 9%, ma nessuno degli sconfitti dice di voler governare con il Partito delle Libertà. La Federazione Architetti del Friuli Venezia Giulia sul progetto di riqualificazione del Porto Vecchio. Il Comune, dicono, doveva coinvolgerci e sono contrari allo spostamento degli uffici regionali nel nuovo comprensorio, impoverendo così il tessuto urbano. Inaugurato il 103° anno formativo della Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo, gli allievi arrivano da 10 nazioni diverse. Più di 300 eventi collaterali alla Barcolana nelle settimane che precedono la Coppa d'autunno e per la regata si sono già iscritte oltre 1200 imbarcazioni. Questa mattina la presentazione. Primo Ciak a Trieste del film di Laura Samani, Un anno di scuola, tratto dal romanzo di Gianni Stuparic. Oggi si gira ai Topolini di Barcola, poi le riprese si sposteranno a Albania Ausonia e a Muggia. La location principale sarà la sede del Nautico a Campanelle, dove saranno coinvolti anche gli studenti. Buongiorno, ben ritrovati da Andrea Marussig e Francesca Vigori per questa edizione meridiana del giornale radio RAI del Friuli Venezia Giulia. Entro il 2026 la mappatura completa delle coperture in amianto del territorio regionale. Finora sono stati monitorati con i droni 30 comuni, una copertura su 10 va rimossa subito. Entro il 2026 ci sarà una mappatura completa delle coperture di amianto sull'intero territorio regionale di edifici pubblici e privati. Questo è l'obiettivo che si è dato l'assessorato all'ambiente guidato da Fabio Scoccimarro per prevenire il rischio correlato alla presenza del materiale potenzialmente nocivo. La mappatura finora ha riguardato 30 comuni della regione, una lista che include quelli più grandi. I risultati provvisori indicano una presenza maggiore nelle zone industriali che si sono sviluppate tra gli anni 70 e 80. Per questo emerge che, per esempio, i territori di San Giovanni al Natisone e di Manzano registrano una presenza di coperture in amianto superiore al 30%. Nella maggior parte dei casi non è urgente intervenire. Solo il 10% dei tetti risulta malorato, secondo quanto appurato dai droni, con una tecnica innovativa. Solo a quel punto l'amianto è pericoloso e va rimosso. La mappatura permette alle amministrazioni comunali di sapere quali sono gli edifici a rischio e di avvisare i proprietari con una lettera, i quali normalmente si adeguano. Solo in rari casi i sindaci sono stati costretti a emettere ordinanze per la rimozione forzata. Per venire incontro a famiglie e imprese, la regione contribuisce alle spese di bonifica per il 50%. Dal 2017 sono stati erogati oltre 18 milioni su circa 5.000 domande. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono meno del 10% i medici antiabortisti al Burlo di Trieste, un numero che non mette a rischio la possibilità di accedere all'interruzione di gravidanza, spiega il responsabile del reparto, che fa il punto anche sul numero di aborti in costante calo. Se nel 2021 si contavano 277 aborti all'anno, nel 2023 si è arrivati a 252. Molto raramente si tratta di minori. Il punto, dopo le parole del Papa che ieri ha detto l'aborto è un omicidio, i medici che lo praticano sono sicari. Un aborto è un omicidio, i medici che si prestano a questo sono sicari, così Papa Francesco ha risposto ad una domanda sull'aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma ieri, parole forti quelle del pontefice che però apre in maniera chiara alla contraccezione. Un'altra cosa sono i metodi anticoncettivi, sono un'altra cosa, non confondete, ha dichiarato il Papa. Siamo al Burlo di Trieste, ospedale materno infantile, con il responsabile del day surgery ginecologico della clinica ginecologica Davide De Santo. Medici abortisti, in questo, nel vostro reparto, sono un problema, sono troppo pochi? No, non sono troppo pochi, hanno una percentuale molto più bassa rispetto ai medici abortisti e non costituiscono un problema organizzativo per quanto riguarda il portare avanti la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Quanti sono più o meno? Più o meno il 10% tra medici strutturati e medici specializzandi. Che cosa avete notato nel tempo? Si ricorre di più o di meno all'aborto? Da quando è stata fatta la legge 194 si è sempre visto un calo del numero di interruzioni volontarie di gravidanza. Un numero? Per esempio abbiamo dal 2021 al 2023 abbiamo circa un 10% di meno di interruzioni volontarie di gravidanza in pratica nel nostro ospedale. Donne e giovani che ricorrono sempre di più, sempre di meno? In realtà la percentuale è sempre costante nel corso degli anni, calano percentualmente tutte le classi d'età prevalentemente, ovviamente aumentando la classe di donne che sono in gravidanza, no? Come numero di età. Il fatto di aver introdotto la possibilità di dare in farmacia la pillola, la cosiddetta pillola del giorno dopo, e quindi non bisogna più venire in ospedale per averla, è stato un bene? La pillola del giorno dopo è una pillola che noi chiamiamo contraccezione di emergenza, è una pillola contraccettiva a tutti gli effetti, non è una pratica abortiva. Tutte le pratiche contraccettive, più se ne parla di contraccezione, più si riduce da questo punto di vista. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A pochi giorni dall'appello della Fondazione Lucchetta, che ha chiesto sostegno e donazioni di indumenti per aiutare chi vive alla diaccia ad affrontare l'inverno, a denunciare una situazione sempre più difficile dei richiedenti asilo è il Consorzio Italiano di Solidarietà. Sarebbero almeno 180 i richiedenti asilo senza accoglienza, abbandonati in strada, di cui 164 uomini singoli, 4 donne singole, 11 persone componenti di nuclei familiari, 3 nuclei, tra cui 6 minori. ICS denuncia il mancato ampliamento del centro di accoglienza straordinaria presso l'ostello Scout di Camposacro in concessione alla prefettura. Inoltre i migranti giornalieri in transito sarebbero circa 50-60 persone al giorno che avrebbero bisogno solo di un ricovero di bassa soglia. Le autorità locali però si rifiutano di allestirlo nonostante l'associazione abbia offerto la loro collaborazione, scrive una nota dell'ICS. La polizia di Gorizia ha fermato un passeur che trasportava stipata in auto una famiglia di siriani, madre e padre e 4 bambini. Durante la perquisizione del conducente, un trentenne ucraino, e del veicolo è stato rinvenuto un taglierino nascosto nel portabagagli. Arrestato per violazione delle normative in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Netta vittoria dell'estrema destra alle elezioni politiche in Austria, l'FPO, il partito che fu di Jörg Haider, conquistano la maggioranza relativa, crollano i popolari. Per formare un nuovo governo sarà in ogni caso necessario un accordo tra i partiti che non sembra facile. Una vittoria chiara fin dai primi conteggi. La FPÖ, il Partito della Libertà, nazionalista e conservatore, è la prima forza politica dell'Austria. Per il movimento che fu di Jörg Haider, il 28,8% dei consensi e una crescita di oltre 12 punti percentuali. Battuti ampiamente i centristi del Partito Popolare ÖVP, che si sono fermati al 26,3%, perdendo oltre l'11%. I socialisti della SPÖ sono fermi al 21,1%. Crollano i Verdi, di sopravanzati anche dai liberali del Neos. Ancora più eclatanti a favore della FPÖ i risultati nei Länder più vicini alla nostra regione, 38,7% in Carinzia, 32,7% in Stiria. Morgen gibt's einen blauen Montag und dann... Domani è un lunedì blu e non si lavora, scherza davanti ai suoi sostenitori Herbert Kickl, leader, giocando anche sul colore di bandiera del suo partito. Ma da martedì dovremmo dare un senso politico a questo 29%. Siamo pronti a guidare il governo, aggiunge, e stendiamo la mano in ogni direzione senza escludere alcuna collaborazione. Il problema infatti è che la FPÖ è ben lontana dall'avere da sola una maggioranza in Parlamento. Le proiezioni le assegnano 56 seggi contro i 52 dei centristi e i 41 dei socialisti. Serve dunque un governo di coalizione. A condurre le consultazioni, che si annunciano lunghe e complesse, sarà il Presidente della Repubblica. Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten. Vigilerò secondo scienza e coscienza, assicura Alexander van der Bellen, affinché nella formazione del governo vengano salvaguardati i pilastri della nostra democrazia liberale, vale a dire lo Stato di diritto, il rifiuto della violenza, i diritti della persona e delle minoranze, l'indipendenza dei mezzi di informazione e l'appartenenza all'Unione Europea. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Italia-Israele del Friuli e l'Associazione Partigiani Esopo Friuli esprimono la propria solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, che sabato a Milano è stata oggetto di gravi offese. Esprimiamo alla senatrice Segre la profonda gratitudine per la instancabile testimonianza di libertà, afferma una nota. Siamo certi che continuerà senza timore questa incessante opera che senz'altro viene apprezzata da tutti gli italiani. Siamo convinti che sia sempre più necessaria l'opera di formazione delle nuove generazioni ed in particolare una instancabile testimonianza di amore alla libertà e rifiuto dell'odio che offende la dignità di ogni persona e fa temere per la pace sociale nel nostro paese. Concludono l'Associazione Italiana Israele e l'Associazione Partigiani Esopo. Alle 12.41 diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 15 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 21 gradi, a Udine Gorizia 16 gradi, a Pordenone 15, a Tolmezzo 13, a Forni di Sopra 12, a Sappada e Tarvisio 10 gradi, a Piancavallo 9, sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 6, a Grado Lignano 16 gradi, la temperatura del mare in queste località è di 19 gradi. Le previsioni dell'ARPA per oggi pomeriggio: cielo poco nuvoloso sulle Alpi e sulla costa, variabile tra pianura e prealpi, con più nubi verso il Veneto e meno a est. Per domani cielo in prevalenza nuvoloso o coperto, dalla sera inizierà a piovere, nel Tarvisiano tempo migliore con cielo variabile. Che cosa pensano gli architetti del Friuli Venezia Giulia del nuovo progetto di riqualificazione del Porto Vecchio presentato dal Comune di Trieste? Nella nostra trasmissione televisiva del mattino Buongiorno Regione lo abbiamo chiesto alla Presidente della Federazione Architetti della Regione, che lamenta il fatto che la categoria non è stata coinvolta. Una delle grandi opere più importanti di Trieste, la riqualificazione di 70 ettari in Porto Vecchio, un'area grande come 100 campi da calcio messi assieme, sta prendendo forma grazie ad un progetto chiavi in mano presentato al Comune da un'impresa bergamasca che si occupa di sviluppo immobiliare, la Costim. Ma tutto questo avviene senza il coinvolgimento degli architetti del Friuli Venezia Giulia. La presidente dell'Ordine degli Architetti di Trieste e della Federazione degli Architetti del Friuli Venezia Giulia, Graziella Bloccari. Il piano non è sottoscritto da nessun architetto, da nessun pianificatore, da nessun urbanista. Tre anni fa siamo stati sicuramente, abbiamo partecipato a degli incontri con Andrea Schippar, che aveva fatto il master plan del porto. Poi diciamo il percorso ha avuto evidentemente un andamento diverso. Gli uffici della regione, dove lavorano un migliaio di persone, si trasferiranno in Porto Vecchio. È una buona idea? L'aggregazione va benissimo per una città come Milano, dove per andare da una parte all'altra della città impieghi un'ora se basta. Qui gli spazi sono, cioè i percorsi sono molto ridotti, riempi da una parte e svuoti dall'altra, perché per concentrarsi nel porto la regione svuota 12 edifici, 12 posti in città, che creano altrettante, diciamo, buchi neri, come li abbiamo definiti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Istituto di Ricerca SVG di Trieste ha unito le forze con Opinionway, una delle aziende leader in Francia nelle ricerche di mercato e nei sondaggi di opinione, per lanciare Pooling Europe, un istituto con sede a Bruxelles specializzato nella ricerca demoscopica in tutto il continente. Grazie all'esperienza combinata dei due fondatori, si legge in una nota, Pooling Europe può rispondere alle esigenze specifiche di attori istituzionali europei, associazioni, gruppi parlamentari, think tank e aziende in tutta Europa. Inclusione e formazione dai ragazzi in condizione di fragilità, un nuovo percorso didattico all'azienda agraria universitaria di Udine. Questa mattina l'inaugurazione. Nell'azienda agraria universitaria Servadei di Pagnacco, il nuovo percorso didattico, realizzato con 25 cartelloni, è stato ideato e disegnato da 6 ragazzi con disabilità e fragilità. I pannelli illustrano flora e fauna, ma anche le attività sperimentali, in stalla, gli acquari, il pascolo, l'ovile, le voliere, vigneti e frutteti. Il progetto si chiama Spazi Aperti ed è concepito in ottica One Welfare, che considera il benessere dell'uomo e dell'animale come interconnessi e dipendenti dall'ambiente. Il lavoro di progettazione di brochure e cartelloni, destinati a studenti, turisti e alla comunità di riferimento, nasce dalla frequentazione del corso di grafica del Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio. L'iniziativa è realizzata dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, dall'Università, con il sostegno di Fondazione Friuli. L'azienda agraria universitaria, 70 ettari tra Pagnacco, il polo animale, e Santo Svaldo, quello vegetale, è riconosciuta come fattoria didattica e fattoria sociale dall'ERSA. Qui i ragazzi, oltre allo stare in contatto con la natura e gli animali presenti in fattoria, sono impegnati anche nell'insacchettamento di pellet fertilizzanti derivati dalla lana per la startup nata in seno all'università, Agrivello, un'attività produttiva paradigmatica dell'economia circolare, per trasformare quello che sarebbe un rifiuto speciale, la lana, in concime organico a lento rilascio di elementi nutritivi e azoto per le piante. Pagnacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arrivano anche da Francia, Polonia, Russia, Romania e Albania i nuovi volti della scuola Mosaicisti del Friuli, che ha aperto il suo 103° anno formativo. Con una cerimonia nella chiesa dei Santi Giuseppe Pantaleone, conosciuta localmente come Chiesa dei Frati, edificio storico nel cuore di Spilimbergo, si è aperto il 103° anno formativo della scuola Mosaicisti del Friuli. Stefano Lovisone, il presidente. Abbiamo allievi che vengono da tutto il mondo, tanti friulani, questo è quello che mi riempie sempre più d'orgoglio, quindi questa tradizione millenaria continua proprio con questi ragazzi e ragazze che incominciano oggi la loro avventura. Sono 22 i nuovi allievi e allieve arrivate in Friuli da tutto il mondo per apprendere l'arte del mosaico. Je suis venue en Italie. Come Pauline, 21 anni, dalla Francia. Sapevo che questa scuola rappresenta un'eccellenza, la ci racconta, e per questo sono venuta sino a qui. Mattia invece è di Pordenone. Ho sentito parlare molto bene riguardo a quello che ti impronta la scuola verso il lavoro. Volendo rimanere nel campo artistico e sapendo la scuola, l'eccellenza a cui porta, mi sembrava la scelta più adatta. James ha 43 anni, è inglese e ha lasciato un lavoro nella scienza per seguire la moglie, già allieva della scuola. Ho visto questi mosaici, dice, me ne sono innamorato e mi sono unito anch'io. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentato il programma ufficiale della 56esima Barcolana, oltre 300 gli eventi collaterali in programma, tra questi anche Barcolana Ski, che legherà mare e montagna coinvolgendo ex campioni dello sci mondiale. Intanto, a 2 settimane dalla regata, sono già 1200 gli iscritti. Energie positive sono quelle che gonfiano le vele della Barcolana, è il motto dell'edizione 56 della regata più affollata del Mediterraneo, una festa espressione di un legame fra Trieste e il mare. Saranno oltre 300 le manifestazioni a corollario dei giorni che precedono Barcolana. Il primo, il concerto gratuito dei Subsonica in Piazza Ponterosso venerdì 4 ottobre. Sup, waterpolo, kite e nuoto, oltre alle diverse regate dagli Optimist ai Maxi, saranno le discipline protagoniste delle tappe di avvicinamento alla mattina del 13 ottobre, quando il Golfo di Trieste sarà colorato dalle vele della Barcolana. Si amplia il progetto di Generali, focalizzato sull'obiettivo di sensibilizzare la comunità velica sullo sviluppo degli equipaggi misti. L'olimpionica Caterina Banti, uno dei testimonial dell'iniziativa che culminerà con l'assegnazione del trofeo Women in Sailing, dedicato al team misto con una donna nel ruolo di skipper che per primo taglierà il traguardo. Un 50 piedi solaris in Piazza Unità darà invece il benvenuto ai tanti visitatori al villaggio Barcolana, che sarà come sempre il contenitore degli eventi a terra. Uno di questi farà capire l'unicità di un territorio come il Friuli Venezia Giulia, capace di legare in un percorso di pochi chilometri mare e montagna, come ha ricordato il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Si chiamerà Barcolana Ski e porterà sulla pista artificiale di Aurisino una gara promozionale con 4 ex campioni come testimonial: Cristian Ghedina, discesista azzurro, la slovena Tina Maze, il croato Ivica Kostelic e l'austriaca Elisabeth Görgl, che si confronteranno con 12 giovani ragazzi del Comitato della Fisi regionale. Un po' quello che succede in mare, le sfide fra grandi e piccoli, e sono già più di 1100 le iscrizioni all'edizione numero 56 di Barcolana. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via oggi a Trieste le riprese di Un anno di scuola, il nuovo film di Laura Samani prodotto da Nadia Trevisane e Alberto Fasuolo per Nefertiti Film Corai Cinema. Dopo alcune settimane di preparazione, dunque, il set entra nel vivo. Le riprese, che interesseranno la città per circa 6 settimane, oggi toccheranno i Topolini a Barcola. La location principale sarà l'Istituto Nautico Tommaso di Savoia, nella sua sede di Via delle Campanelle, con anche un percorso di coinvolgimento attivo degli studenti. Saranno toccati dalle riprese anche lo stabilimento balneare Usonia e Muggia. Un anno di scuola è liberamente ispirato al libro omonimo di Gianni Superic. La storia è ambientata nel settembre 2007 a Trieste, in una classe di soli maschi all'ultimo anno di un istituto tecnico. Le vite di 3 amici, Antero, Pasini e Mitis, vengono stravolte dall'arrivo di una ragazza svedese. I protagonisti del film sono Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno, tutti allora debutto cinematografico. Laura Samani con quest'opera è stata scelta come uno dei 6 registi per la residence del Festival di Cannes. Le 12.50 e siamo allo sport, il basket, partenza con il botto per la Pallacanestro Trieste che alla prima di campionato di A1 piega l'Olimpia Milano per 84-78. Bella impresa anche la prima partita per Cividale che batte per 77-69 Forlì, mentre non parte bene il campionato di A2 con Udine che ha perso a Rimini per 85-71. Vittoria invece di Adriatic Europa, il maxi di Dušan Puh al 41esimo trofeo Due Castelli, la regata velistica tra il castello di Duino e quello di Miramare. Secondo posto per il maxi Swan 70 Flying Dragon, terzo per Nakhla. Alla manifestazione organizzata dalla società nautica Laguna hanno partecipato 120 imbarcazioni che hanno goduto di condizioni meteo eccellenti, una splendida giornata di sole e una bora costante sui 15-16 nodi. Domenica 6 ottobre si torna in regata per la Bernetti organizzata dalla Pietà Siulia, considerata la prova generale della Barcolana. Alcuni appuntamenti di musica previsti in giornata in regione all'Auditorium della Casa della Musica Trieste, anteprima della nuova stagione musicale del Circolo del Jazz Thelonious, protagonista l'Avram Pfeffer Trio alle 20:15. Sempre a Trieste, al Teatro Miela, il trio Espero si esibisce invece per un'iniziativa di raccolta fondi a favore dell'Africa. In programma brani di Beethoven, Mendelssohn e Glinka alle ore 18. Al via il Festival degli Angeli, primo appuntamento nella chiesa di Sant'Andrea Gorizia alle 20:30. Si esibirà l'associazione corale Rilke, il coro Fanti e Ispod Grmade e il coro del Collegio del Mondo Unito di Duino. Per la stagione concertistica, Note del Timavo, a Duino Risina, presso la chiesa di San Giovanni in Tuba, il concerto del pianista Francesco Radatto, fresco vincitore del concorso Talento Contemporaneo Friuli Venezia Giulia, alle 21. L'arte della cucina tradizionale triestina di Edda Vidiz in uno spettacolo ironico musicato dal quartetto d'archi Belle Époque di Piero Zanon. L'appuntamento è a Trieste, alla Biblioteca Stelio Crise, alle 17. Arriva anche a Trieste il film Cuori Liberi sulla vicenda dei 30.000 suini abbattuti per la diffusione della PSA, la peste suina africana, tra questi migliaia di esemplari sani. Il film promosso dalla Lega Antivivisezione e con la regia di Alessio Schiazza verrà proiettato oggi e domani al Cinema Nazionale di Trieste alle 18:15 e alle 19:45. Per il lunedì dello Schmidl, protagonista Emilio Sala, che presenta il suo ultimo libro intitolato Opera Neutro Plurale, glossario per melomani del XXI secolo. Alle 17:30 a Trieste, nella sala Baslen di Palazzo Gopcevic. A Pordenone, invece, prosegue la rassegna dedicata all'editoria religiosa Ascoltare, Leggere, Crescere. Alle 17:30 all'ex convento di San Francesco la presentazione del libro sui martiri cattolici dell'Inghilterra protestante tra 5 e 600. Infine alle 20:30 al seminario diocesano una riflessione su fede e ragione con il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, Monsignor Antonio Stagliano. Giuliana Cadelli, studiosa di mitologia e storia religiosa del mondo antico, presenta il saggio Afrodite, l'arte dell'inganno. Appuntamento a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Da oggi chiude temporaneamente il traffico via Battisti a Udine per gli ultimi interventi di manutenzione del manto stradale. Sarà posizionato un nuovo porfido gran parte del quale sarà recuperato da quello rimosso e conservato dall'inizio dei lavori. L'intervento dovrebbe durare circa 3 settimane. I prossimi lavori in via Canciani e via Poscolle Alta sono previsti indicativamente a partire da fine gennaio del prossimo anno, mentre a Pordenone, sempre oggi, partono i lavori per l'ampliamento della rete fognaria in via Codafora. La strada sarà interdetta al traffico veicolare da via della Santissima fino all'intersezione con via Daviano. È tutto per questo giornale radio redatto e condotto da Andrei Marušić e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Laura Sarasini in redazione. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.